Questo dal punto di vista televisivo, ma anche radiofonico, si chiama tipo Aspettando chiedo asilo. Potrebbe durare 10 minuti come l'intera trasmissione, quindi poi chiedo asilo effettivamente durare tipo pochi secondi. Non lo saprete mai. E questa è la figata di oggi. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Chiedo asilo. Ah, che buoni bratwurst e che buon vino che si beve qui. Lo so. In questo chalet c'è un'atmosfera stupenda. Vabbè, come devo farlo? Alla Svizzera oppure... Guarda che bella bionda, guardala. Ehi là. Fatti avanti, drago, dai, fatti avanti. Quindi è lo chalet. Mica come te, io non conosco la sua lingua, quindi... Ma che problema c'è? Con Wunderwaffer non occorre sapere lo svizzero tedesco. Ah, quindi tu dici che se io... Ehi, è vero! Ho tirato fuori il mio Wunderwaffer e la biondona mi ha... Ma drago, cos'è la biondo? Ma quale Wunderwaffer dalla Zip, drago? Cos'è sta roba? La roba non funziona. Ma come? Aspetta. Ma che aspetta? Guarda, ho tirato fuori il mio Wunderwaffer e la biondona mi ha notato. Viene verso di me. E ti prende a bastonare. Sta anche correndo. Drago! Bravo! Aia! Wunderwaffer. Wunderwaffer. Wunderwaffer. Wunderwaffer. Bentornati al dopo aspettando chiedo asilo, sì, quindi non ancora chiedo asilo, un saluto da K. È bello, è un saluto da Drago, è bello anche provare provare a fare una, appunto, una frazionalizzazione di questa trasmissione. Quindi adesso siamo inventarci le parole asilo. Anche sì. Siamo durante chiedo asilo o nel post pre chiedo asilo, che però dovrebbe essere la stessa cosa. Comunque non importa. Gli imprenditori all'ascolto che sono cinquantenni, tutti a rischio di infarto e ictus. No, cosa vuol dire? Mica tutti. Vabbè, inizino a tremare non solo per la salute, Ma anche per il loro posto di lavoro, perché adesso ci saranno dei mocciosetti di 12-13 anni che ruberanno il loro posto di lavoro. Madonna. Grazie alla fondazione Young Ondernemen, una fondazione olandese creata nel 90 con la partecipazione di una grande banca olandese, del Ministero dell'Economia, eccetera. Questi organizzano in 4.000 scuole dei Paesi Bassi dei corsi di imprenditoria e aiutano gli alunni a fondare un'azienda. Cioè, ai bambini. Ai bambini, 12-13 anni. Se questi qua non hanno capitali propri, come è normale... li sponsorizza economicamente ai 12 anni. Sì, quindi è un'organizzazione non profit il cui principio è learning by doing, cioè imparare lavorando. Sì. Alla fine la fondazione fa un monitoraggio e vede se questi giovani che ha aiutato sono diventati imprenditori oppure stanno tutto il giorno al coffee shop, capito? Beh, certo, quindi... in Olanda poi hai quell'occasione lì che qua non abbiamo, tipo di passare tutto il giorno al coffee shop. Esatto. A meno che tu voglia fare l'imprenditore di coffee shop, quindi apri un coffee shop, ti fai prestare i soldi a 12 anni. Sì. Stai tutto il giorno al coffee shop, certo, learning by doing, bravo, quindi impari anche a fare tutto, anche fare manualmente, poi devi preparare anche gli spinelli pronti per quei turisti che non hanno la manualità, capito? Giusto, sì, è una buona idea. Una buona idea, però bisogna dire che gli esempi che invece il governo sponsorizza, cioè quelli che sono riusciti nell'imprenditoria, sono altri. Non si parla di coffee shop, si parla di una ragazza di 15 anni, Marain, che crea siti web per amici e conoscenti, così, fino a qualche anno fa, e adesso invece a 25 anni dirige la sua azienda con 14 dipendenti nel centro di Leida. Oppure Pak Merburg, che a 13 anni crea applicazioni per iPhone. Mida Kvant, 14 anni, che ha creato Inside iOS 5, che è una delle 25 app più scaricate per iPhone e iPad. E poi c'è Alex Tess Rutten, una ragazza di 17 anni che offre consulenza a bambini superdotati su come sfruttare. Ma perché fai quella faccia? Ma scusa, l'iPad e poi i bambini superdotati? Offre consulenza ai superdotati? Vabbè, insomma, chiudiamo qui, dai. Avete un po' di musica. Ma avete chi? È la musica, dai, bisogna arrangiarsi qua. Siamo a Radio 24, c'è mica. Guarda che canzone, io volevo che mettessero una canzone ma già fatta. Ma chi? E ti metti lì e dici Ma avete chi? Ma avete chi? E ora, bambini, ricreazione. Vabbè. Io adesso non... Dove portati quei fumetti là? Certo, ma i supereroica? E come no? Guarda, vedi, te l'ho portato in mucchio. Ma quali supereroi, Alberto? I supererotica, t'avevo detto. Ma non mi capisci? Supererotica? Ma che cos'è? Cioè, mio padre ha la collezione completa dei supereroica a casa, eh? Il solaio. I fumetti di guerra. Sono bellissimi, eh? Ci sono battaglie aeree, combattimenti, assedi, azioni di guerriglia. Sì, ma non ci stanno le donne nude, beh! Vabbè, per forza, sono tutti soldati, no? Quindi sono maschi. Al massimo c'è qualche gay, no? Vabbè, ancora, ma che hai con sti gay? Ma non ho niente contro i gay, io! È che se tu sei gay, cioè è perché nasci così, no? Si nasce, la natura, no? No, ma io non sono gay! No, tu, stavo dicendo, lì nell'ambito militare, no? I soldati. Capita lì, sono tutti maschi, capita che ci può essere qualche gay, no? Ho capito, ma mica sono un soldato io. Ho capito, appunto! Ma lì i gay ci possono stare, no? Magari uno su 50, ma il gay... Un gay, tu... Sì, ma a me mi interessano i fumetti, vabbè, ma non con i soldati gay! Con le donne nude, avevamo detto! Se prima dessi un'occhiata a questi fumetti, prima di parlare... dacci un'occhiata, ci do lettura, che caso mai ti viene in mente... Cioè, cominci a capire com'è la situazione, no? È militare. I combattimenti, la guerra, il rancio, la latrina. Accidenti, che botta! Siete ancora interi? Senior! Rico! Io sto bene! Anch'io sto bene! Beh, magnifico! Siamo tutti bene, allora! Sì, però siamo sotto il fuoco nemico! Perché? Dove vorresti essere, Rico? Magari in riva al mare, con la tua ragazza, a bere birra e a fare l'amore, eh? Beh, sì, mi piacerebbe! Sì, anche a me piacerebbe! Attento a te, quella è la mia ragazza! Piantatela, siamo in guerra, maledizione! Non c'è tempo per le ragazze! Mi hanno sparato a un piede! Non si preoccupi, capitano! Il mignolo è un dito inutile! È vero, capitano! È solo una ridicola appendice! Io non ho detto che è ridicolo, ho solo detto che è inutile. Sì, però è anche ridicolo. Basta! Non possiamo stare qui tutto il giorno a parlare di mignoli. Beh, in fondo anche la luce. No, dai, la luce serve. Ma finitela! Allora, vediamo di capire la situazione. Sì, capitano. Abbiamo un nido di mitragliatrici a ore 2. Sì, capitano. Un altro nido di mitragliatrici a ore 11. Sì, capitano. 11 meno un quarto. Sì, capitano. Siamo senza copertura aerea. Sì, capitano. E abbiamo finito le munizioni. Sì, capitano. Mi servono due volontari. Ma ci siamo solo noi due. E infatti me ne servono due. E va bene anche uno. E ora, bambini, e tutti a casa. Uff, che giornata oggi, cazzo. Non capisco, c'è il blocco dei tir e qui per attraversare, guarda quante macchine, quanti tir, quanti camion. Ma solo qui, perché è un passaggio che evita l'area C, hai capito, quindi, segreto, che hanno, hanno scoperto e quindi passano tutti. Siamo da qua. Sfortunati, oggi c'era pure il capo con le palle girate e lo sciopero dei mezzi. Eh beh, succede. Me lo dai un passaggio? Lo farai volentieri, Drago, ma purtroppo devo andare fino a Loreto a tirare su mia figlia, se no finisce che la porta a casa in motorino quel drogato del suo ragazzo. Oh, che coincidenza, ma io abito proprio lì vicino. Però devo passare anche dalla nonna, sai, devo portarle la spesa. Perfetto, io aspetto in macchina, così la puoi lasciare in doppia fila. No, guarda, magari poi la nonna, sai, inizia a raccontarmi di quando era giovane e di quando era bella e di quando c'era la guerra e così facciamo mezzanotte. Va bene, allora andrò a piedi, ce n'ero un po' tardi, ma per fortuna ho qui con me un mio bel Wunderwaffer. Ne hai uno anche per me? No, guarda, ho solo questo. Che invidia che mi fai. A casa ne ho una bella scorta. Ah sì? Beh, allora ti accompagno e me ne porti giù qualcuno. Ma scusa, e tua figlia? Aspetterà, tanto è solo contenta di stare fuori un po' di più con quel pezzo di merda. Ma hai il ragazzo drogato. Beh, cosa vuoi che ti dica? Farà nuove esperienze, ne uscirà più consapevole. Ho capito, ma la nonna? La nonna? Ah già, me ne ero dimenticato. Ma no, scherzo, tanto la nonna è morto proprio ieri. Poverina, eh? Dai, salta su in macchina, andiamo a mangiarci Wunderwaffel. Ecco, continuate a contattarci su Facebook, vediamo che arrivano tanti apprezzamenti per Wunderwaffer, siamo contenti, speriamo che questo si traduca presto anche in un aumento di capitale, di gadget, budget e stipendio e ma tutto cos'è quanto. Sta, cos'è sto chiedo asilo è lament24.it per chi era contattarci. Lament degli Ultravox. Degli Ultravox. Com'è che faceva? Lament lament così poi avanti 4 minuti e 36, una roba mortale.